9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, e nell'augurarvi una buona giornata vi dico che oggi ho come conduttore la responsabilità di darvi un avviso preventivo. Nei giorni che sono alle nostre spalle, tutte le volte, tutti i giorni all'inizio di trasmissione, ho richiamato il mio giudizio, violando le regole, su questa norma che impedisce al conduttore, secondo me, nell'avvicinarsi delle elezioni regionali, di fare bene il proprio mestiere, perché non avrei potuto raccontarvi, e praticamente non lo abbiamo fatto infatti, ciò che si stava delineando giorno in giorno, se non con tutti i 50 rotti soggetti, facendo in modo tale che tutti fossero rappresentati con equo al tempo. E io non dovevo dare giudizi su quello che avveniva, né nel formulare le domande, né nel commentarle, né nel riferire nomi, circostanze, fatti, sondaggi. Abbiamo deciso di non farlo, infatti, denunciando questa regola che ci sembra una demenza. Detto tutto questo, oggi sospendo anche la cosa che avevo osservato fino a questo momento, cioè quello di tentare di evitare qualunque tipo di giudizio, perché ogni tanto fare il conduttore, fare il giornalista, significa anche, sia pure in maniera motivata, fondandola su alcuni argomenti, dare dei giudizi. E allora una norma che, nell'avvicinarsi alle regionali, ci impediva di far questo, mi sembrava due volte demente. Primo, perché non vi offriva gli elementi di approfondimento per le regionali, secondo perché impediva a me di fare il mio mestiere. Questa è la mia opinione, me ne assumo responsabilità, io sono un esterno rispetto alla radio, se ne derivano problemi me ne assumo la responsabilità, lo dico nei confronti del direttore, nei confronti dell'azienda. La mia opinione è che però, con tutto quello che è successo in questa campagna elettorale, che tutto è tranne che una normale campagna elettorale di elezioni regionali, mi sarei aspettato, a dirvi la verità, di assistere in grandi aziende, non tanto quella pubblica che ovviamente è sottoposta più direttamente alle norme che sono state emanate, ma in altre aziende, a violazioni sistematiche di questa norma, organizzate, dichiarate da parte di conduttori e con il sostegno di gruppi editoriali. Perché secondo me questa è una maniera, non perché io creda nel protestare fino a se stesso, ma perché credo che le circostanze di questo voto siano, come è evidente da quello che è successo, particolari, eccezionali. Come è evidente, qui non si parla in alcun modo di campagna, nomi contrapposti, qui si parla di un evento, un fumus che è diventato prevalente su tutto in queste regionali. Le opinioni sono molto divise. Ieri, ascoltando due costituzionalisti, avete ascoltato, senza che io dicessi alcunché, come in materia di interpretazione di competenza delle regioni rispetto a quella nazionale in questione di leggi elettorali regionali, le opinioni siano divise nella dottrina, quindi probabilmente resteranno divise anche nella giurisprudenza, con pronunzie che verranno dopo il voto, e sai Dio come finirà nel Lazio, se con impugnative successive, con richieste di annullamento successive. Insomma, c'è un punto delicato, perché riguarda il rispetto delle regole, riguarda la capacità della politica di attenersi ai principi che si è dato, riguarda anche la magistratura che non adotti due pesi e due misure. Ieri c'era una prima pagina sul giornale che dava evidenza fotografica di schede con eguali pecche presentate dalle liste contrapposte a Milano e Lombardia, con eguali pecche in merito alla regolarità delle firme di autentica, eppure c'era quelle di un candidato che venivano tutte bocciate e quelle di un altro candidato che con le stesse pecche venivano tutte ammesse dagli stessi magistrati. Insomma, un enorme congegno di problemi, ma ce n'è anche uno centrale che riguarda il giornalismo. Fine della mia introduzione, perché ho pensato in queste settimane in cui alcune trasmissioni non vanno in onda innanzitutto sulla RAI, e non andando in onda sulla RAI creano, oltre a un danno alla RAI, hanno creato un danno secondo me all'informazione italiana, all'audience della RAI, e secondo me sono incomprensibili le decisioni di non mandarle in onda. Ho pensato che questa, o almeno una puntata, bisognava farla non con un giornalista o un conduttore che in queste settimane, per poche settimane, non va in onda, ma con un giornalista che io sto a definire collega, perché per quello che ha fatto e ha fondato testate portandole al successo straordinario, è un giornalista, ma non è un mio collega, è uno molto più bravo di me, ma che però è fuori dal ring da un anno. E allora ho deciso che si violava il regolamento, per così dire, da parte mia, non da parte sua, ma con lui, è Enrico Mentana. E io ricordo a tutti che appunto la testimonianza sua è quella di come si possa avere molto successo, fondare un telegiornale che non ce l'ha privato, portarlo con molte risorse in meno, abbattere il TG1 e così via, e dopo anni e anni di invenzione e conduzione e ideazione che ha portato molti denari alle aziende per cui ha lavorato e molto successo giornalistico anche a lui, si può finire fuori dal ring e stare un anno senza che, per una ragione o per l'altra abbastanza incomprensibile, le norme del non detto che prevalgono su quelle della deontologia ti buttino fuori dal ring e ti ci facciano restare. Secondo me è lui la persona più adeguata per parlare di quello che sta succedendo all'informazione in questa campagna regionale. Fine del mio postolotto e grazie a Enrico Mentana per aver accettato di essere con noi oggi. Eccomi. Allora Enrico, d'ora in poi io starò zitto, ma come vedi parlo, smitraglio quasi quanto te, però d'ora in poi faccio parlare te, io faccio solo qualche chiosa. Innanzitutto, che impressione hai avuto di questa norma della par condicio? Ti saresti aspettato qualche protesta in più o è tutto esattamente come temevi? Io mi sarei aspettato non qualche protesta, ma qualche trasgressione, qualche interpretazione che magari un po' italiana, magari cercando come vediamo succedere in grande per le liste elettorali, trovando qualche cavillo, riuscisse a salvare capra e cavoli, riuscite a salvare tutto. Parlare del caos delle liste vuol dire parlare della campagna elettorale o di una vicenda di altro tipo che sta tra la cronaca, la politica e la società? Forse no, non è campagna elettorale vera e propria. Sono completamente d'accordo, anch'io mi aspettavo che per questo ci fossero fior di tettori che dicessero: sentite, il regolamento basta, perché stanno avvenendo cose che qui non è parlare. No, ma il problema è un altro, perché la normativa ha portato alla, come si sa, alla sospensione dei talk show, e anche i talk show privati delle reti private non possono parlare dei soggetti della campagna eccetera eccetera. Ma la questione è che i programmi di approfondimento televisivo in realtà, essendo bloccati, non possono resuscitare neanche se succede qualcosa di importantissimo al di fuori del circuito elettorale. Cioè se avviene un'altra ondata di arresti per un altro scandalo, non se ne può parlare. Non ci sono i contenitori per raccontare quello che è successo. Tutto va nell'informazione. Su cui non darò nessun giudizio perché non sono un arbitro, sono un giocatore, sia pure infortunato, squalificato, scegli tu, però soltanto nell'informazione che è per forza in pillole dei telegiornali. E quindi se c'è una vicenda intricata, pensa alla questione Scaglia, Fastweb, Mobkel, quella roba lì, no? Quanto è difficile raccontare, figurati un'altra storia così in questo mese di campagna elettorale, quindi di bavaglio sostanziale ai talk show, come può essere raccontato in due minuti nei telegiornali. Ma la tua impressione, io non ti chiedo né giudizi personali né su te stata né su aziende, ma parliamo in generale, però in maniera tale da far capire come la pensi chi è a casa. Pensi che in definitiva i direttori siano troppo condizionati dal dovere permanere dove stanno e quindi dalle influenze politiche delle aziende, dal doversi comportare bene, per cui non bisogna mettere in atto proteste? No, mettiamola diversamente. Parliamo come se parlassimo di una categoria. Il problema non sono i giornalisti, che spesso sono un problema anche per i cittadini, nel senso non è una questione di rivendicazioni categoriali. Qui andiamo su un aspetto principale. C'è in televisione ormai una legge non scritta e anche tante leggi scritte che fanno capire come la televisione, soprattutto nel periodo elettorale, ma non solo, sia fatta a misura dei partiti e non dell'interesse dei cittadini. La stessa par condicio è una legge fatta perché nessuno si fida dell'altro e quindi i partiti vogliono che sia stabilito da qualcun altro fuori da loro quanto può entrare ciascuno di loro nell'informazione televisiva. Non è l'interesse del cittadino, è l'interesse a una spartizione uguale. Mi spiego? Sì. Tragicamente ti spieghi, perché poi a diventarne fautori di questa rottura, di questo nuovo ulteriore imbevagliamento, sono diventati i radicali che in teoria sembravano contestarlo, ma pur di avere il loro minuto... Perché i radicali in realtà, se non c'è la par condicio, sono quelli che non partecipando alla lottizzazione sostanziale, quella che porta la RAI a essere direttamente e senza nessun infringimento eletta dal Parlamento, cioè dai partiti, no? Essendo i radicali un partito extraparlamentare, nel senso che non sono se non minimamente rappresentati in Parlamento, e per di più proprio da quel Beltrandi che ha fatto quel capolavoro, non essendo quindi nel governo della RAI, se non c'è una legge che tutela gli spazi, loro scompaiono proprio o dicono di scomparire, e quasi sempre hanno ragione, tant'è che hanno inventato i loro centri d'ascolto e tutto quel sistema che sappiamo. No, il problema è un altro, appunto, che in Italia obiettivamente sappiamo che c'è chi ha più voce nelle televisioni, ed è questo l'elemento che porta gli altri a chiedere dei presidi forti, stabili e certi, che poi sono di fatto la lottizzazione nella RAI. Questo fa sì che tutto quello che discende poi è che in periodo elettorale la cosa più semplice è salvaguardare gli spazi dei partiti, togliere gli spazi che sono a geometria variabile, che sono in talk show, e lasciare che ci sia soltanto la comunicazione dei telegiornali e la comunicazione classica delle tribune politiche. Però se succede qualcosa che sfugge a queste regole, ad esempio che cosa sta succedendo nel caos delle liste, non lo puoi fare, perché teoricamente per parlare del caos delle liste dovrebbero partecipare, che so, nel Lazio tutti i candidati governatori del Lazio, no? Adesso con tutto il rispetto c'è uno che si chiama Baldi, sì, però insomma non è quella la cosa decisiva. Ma non dobbiamo trarne lezioni, e tu secondo me non sei né infortunato né sospeso, secondo me ti hanno combinato una sanzione, un organo con un titolo per combinartela, però anche nel tuo caso quello che conta sono le conseguenze di fatto. Perché le conseguenze di fatto dovrebbero testimoniare, in qualunque paese normale, come direbbe il compagno D'Alema, che uno che ha i tuoi successi, le aziende editoriali concorrenti, se non la stessa che ha preso quella decisione, ti si dovrebbero proprio fare a pugni per prenderti. Se non avviene, vuol dire che c'è un elemento di fatto. Io non ti chiedo di commentare questo, lo sto dicendo io. C'è un elemento di fatto che prevale su una normale fisiologia del mercato, visto che è un prodotto di successo, ce lo si contende, e questo elemento di fatto deriva dalle reciproche influenze che con il successo nel fare buona informazione hanno poco a che vedere, perché altrimenti io non riesco a capirla questa cosa. Mi permetterai di non parlare di... No, non voglio, ma non voglio che tu dica niente, né ti sto chiedendo. Sicuramente, ecco, una par condicio che non c'è in Italia è quella che impedisce il vittimismo agli interessati. Ma no? Infatti non lo dico per vittimismo. Ecco, io, no, siccome c'è dal mattino alla sera qualcuno che... Non c'è dubbio, tu non ti sei mai lamentato. Io non lamento niente, e non sto dicendo questo, sto dicendo però che intorno all'organizzazione dell'informazione è evidente che ci sono dei non detti grandi come case. Ma certo, ci sono dei non detti che noi possiamo anche tranquillamente e ovviamente dire. Come è direttamente discendente dal quadro che prima abbiamo disegnato, è ovvio che chi guida le aziende... le aziende che hanno una forte penetrazione nel campo della comunicazione scelgono comunque di affidarsi a professionisti di cui conoscono le tendenze, di cui sanno di quale ispirazione culturale hanno, mettere in questi termini. È molto spesso così, è inevitabile. Io mi affido quello... Facciamo finta di essere un dirigente del centro-sinistra. Dice, quello ha già tante televisioni, noi abbiamo pochi spazi, nei nostri spazi però ci mettiamo i nostri, perché così almeno sappiamo che abbiamo dei presidi. Vediamo dal punto di vista del topo invece che del gatto, no? Questo è il discorso che fa il topo. Anche il gatto che si ritiene topo a sua volta, perché questo nella mente... cioè me lo stai facendo apposta, io notoriamente sto con i gatti, anche se mi stanno simpatici i topi, però vabbè. No, ecco, dice, ma che anch'io sono un po' topo, bisogno perché poi tutti sono contro di me, eccetera, eccetera. Il fatto è che a questo punto chi non sta né col gatto né col topo, la mia situazione, ma non soltanto la mia, evidentemente quella di tanti altri, è più difficile che venga considerato per appunto dei prodotti che devono avere in tempo di guerra e spesso anche in tempo di pace la caratteristica però di essere degli strumenti affidabili. Questo è il discorso fatto molto, spero molto chiaramente. No, è molto chiaro, la mia opinione è questa: siccome questo discorso non riguarda, se non incidentalmente, la carta stampata, ma riguarda innanzitutto la televisione e la radio, la mia opinione, io lo dico fuori dai denti, fossi stato io direttore, io è noto, vengo spesso sbattuto fuori, non mi lamento, però fossi stato direttore avrei promosso un'indagine riservata tra colleghi direttori di testate radiofoniche, quelle pubbliche secondo me non possono molto, ma insomma i grandi gruppi privati, nel dire firmiamo insieme un impegno che dichiariamo congiuntamente che da questo momento in poi, in relazione a quello che sta succedendo, noi non lo rispettiamo più e lo dichiariamo di non rispettarlo, questo testo. Questa sarebbe stata la mia posizione dichiarata alla luce del sole. Spesso vi dichiaro che penso che farei così, come faccio così anche da cittadino su alcune cose amministrative o fiscali che non mi convincono. Penso che si debbano fare queste cose autodichiarandole, perché così ci si addita al perseguimento di norme stupide. No, scusami, vediamo, perché sennò entriamo anche noi nella logica di milioni e delle liste. Non c'è bisogno di tutto questo. Siccome queste leggi ed altre esistono da tanto, mi sono trovato a fronteggiare una decina di campagne elettorali, quindi so bene di che si tratta. In realtà trasgredire, se si trasgredisce a lume di interesse giornalistico, esatto, e non a lume di interesse inconfessabile, certo, se si trasgredisce a lume di interesse, cioè, non è che serve per fare trasmissioni solo con ospiti della PDL o del PD, ecco, no, ma se si trasgredisce nel, per il bene dell'informazione, spesso anche non avendo ospiti politici, certo, non è esatto, che, esatto, che non è che voglio dire, fare informazione vuol dire sentire questo e quello, perché sennò informazione, parliamoci, esatto, che potrebbero fare tutti, e spesso allora basterebbe dire al conduttore spostati un po' e fai parlare direttamente i due, no? Perfetto. Che non è sempre la peggiore delle soluzioni, ma vediamo di intenderci. Il giornalismo è un'altra cosa, andare a indagare, andare a cercare terze persone, dico una sciocchezza, il signore che stava all'ingresso di quell'aula del tribunale, di quella sala in cui è entrato o non è entrato in tempo, non è un soggetto politico, non è di destra o di sinistra, probabilmente nessuno chiederà mai per chi vota, però è un testimone attendibile. Non c'è dubbio, certo. Ecco, tanto per intenderci, però partiamo dalla cosa. In generale si può e si deve trasgredire, perché la trasgressione sostanziale non è quella formale, la trasgressione sostanziale è quella di dire, se succedono cose importanti noi ne parliamo. E la cosa divertente, balsana, è che in realtà tutti gli spazi di informazione dei telegiornali, anche in Rai, sono sopravvissuti, ci sono ancora. Se tu infatti la questione, come sai, tocca programma di Floris, lo puoi fare, invita Floris la notte del TG3 e lo fai parlare per un'ora con altri ospiti che casualmente transitano di lì, fai lo stesso senza pubblico eccetera eccetera, però lo fai, e questo che ti fa capire che poi, fatta la legge, anche in campo televisivo si trovano mille modi, certo, per trasgredire, se si vuole trasgredire. Ma qui il problema è, si vuole trasgredire? Spesso si vuole trasgredire soltanto dal punto di vista della protesta, cioè del dire, allora adesso facciamo una cosa in piazza, no. Il problema non è protestare, no, qui è continuare informale a fare il proprio lavoro, certo, cioè trovare i modi per continuare a farlo, perché il problema non è farsi notare, che spesso è il problema di noi conduttori, il problema non è farsi notare, il problema è continuare a fare un lavoro che sia utile, perché in questi giorni la gente vorrebbe sapere chi ha ragione, dove si sta, anche la gente che ha già deciso per chi votare, vorrei capire come si stanno comportando i nostri, qualunque siano i nostri, no? Chiunque siano i nostri. Ora andiamo esattamente nella seconda parte della trasmissione a questo. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando con Enrico Mentana, ospite unico d'onore della trasmissione, l'informazione rispetto alla piega che ha preso questa campagna elettorale, i vincoli che ha posto la sospensione dei talk show, come ciascuno ha tentato di acconciarsi a questi pesanti limiti che comunque contrassegnano negativamente, a mio giudizio, questa campagna, che verrà ricordata a lungo per la gravità dei principi che entrano oramai in discussione, e anche con la difficoltà di spiegare a chi si vuole fare un'idea e non ha già un'idea preconcetta, a prescindere, sono tanti italiani che hanno una visione tribale oramai, esattamente come i politici che hanno una visione tribale, però tantissimi altri invece sono disposti a tentare di capire che cosa sta succedendo, è vero o non è vero, per esempio, che esiste un doppio, due pesi e due misure nel giudizio dei requisiti delle firme e delle altre procedure previste per la regolare presentazione delle liste, poiché è questa l'accusa del centrodestra, a cominciare dal Presidente del Consiglio. È vero o non è vero, invece, che rispetto delle regole e non cambiarle in corsa è un principio sul quale la politica dovrebbe stare attenta quando si tratta di procedimenti elettorali? E poi, chi ha ragione e chi ha torto nella contesa aperta con impugnative alla Corte Costituzionale, alla magistratura non solo ordinaria ma amministrativa di ogni ordine e grado in ordine alle competenze per le elezioni regionali? Ha ragione il governo che ritiene, lo abbiamo sentito ieri, che l'articolo 122 sia solo sui sistemi elettorali regionali, cioè sul meccanismo di traduzione dei voti espressi dai cittadini nelle urne in meccanismi proporzionali e maggioritari nelle assemblee regionali? Oppure ha ragione chi sostiene e così nel Lazio, per esempio, che la competenza secondo l'articolo 122 è sull'intero procedimento, non solo sul sistema elettorale regionale, ma sulle condizioni di regolarità del voto ex ante, cioè la presentazione delle liste candidate, e poi la modalità della campagna elettorale, anche le forme di propaganda e così via. È diventato un paese in cui su ognuna di queste questioni ci sono due maniere contrapposte e in armi dal punto di vista del diritto, sto dicendo, e della politica, l'un contro l'altro armate. L'effetto c'è sui sondaggi, a quanto sembra, potremmo andare a grandi sorprese nel bilancio di un voto che si preannunciava come quasi trionfale per il centrodestra, che oggi vede regioni come la Puglia, la Calabria, la stessa Campania, punto interrogativo, il Lazio, il Piemonte, con il punto interrogativo se non un deciso vantaggio del candidato del centro-sinistra. Insomma, un bilancio molto diverso da quello che si poteva aspettare, se tenete conto che oggi un giornale come Libero, in prima pagina, per esempio, lo dico apposta, affaccia l'ipotesi di un Tremonti candidato alla successione di Berlusconi. Allora, Mentana, vediamo un secondo. Avessi dovuto organizzare in questi ultimi giorni, in quest'ultima settimana, quella dell'ACME, dello scontro dopo il decreto del venerdì scorso del governo, un po' di approfondimenti per capire. Da quale punto di vista il tuo avresti cominciato? Tu che impressione hai in realtà di quello che sta avvenendo? Allora, l'impressione, ovviamente è ingeneroso dirlo, ma l'impressione innanzitutto è che tutti abbiano preso ciascuna delle pieghe degli avvenimenti soltanto dal punto di vista del loro riflesso, ciascuno dal punto di vista del suo riflesso condizionato. Evidentemente il decreto del governo è stato visto come un golpe da chi comunque è abituato a giudicare negativamente ogni manovra del governo e come una manovra tardiva ma necessaria da parte di chi sta sempre dalla parte del governo. Sgombriamo il campo dalle concezioni che tu hai definito prima tribali, mi pare è giusto, quelli per cui comunque Berlusconi ha ragione o comunque Berlusconi ha torto. Abbiamo visto che il famoso golpe del decreto è la prima volta che un golpe viene sventato dal TAR, no? Quindi dimostrare che la situazione è grave ma non seria anche in questo caso. L'impressione è che innanzitutto bisogna capire il perché, perché questo è stato completamente dimenticato ormai. Perché tutti quegli errori? No? Perché nella vicenda che abbiamo visto denunciata anche dal giornale in Lombardia, effettivamente sembra che ci siano due pesi e due misure, ma la vicenda romana è una vicenda tutta interna al PDL, è una vicenda di errori assolutamente inescusabili, no, è incancellabile, no? Poi ci può essere chi ci ha giocato sopra eccetera, ma lì c'è la dimostrazione che c'è una cosa di cui si è smesso di parlare nel turbinio delle polemiche sull'legittimità o no delle liste di interventi successivi. Lì c'è un partito che evidentemente ha delle difficoltà di crescita, è un partito che è ancora l'insieme di due partiti che si sono amalgamati non bene, in cui al momento che quello supremo, la formazione delle liste, in cui si vede come si è riuscito a cementare un partito, ad affiatare un partito, evidentemente si è visto che c'è uno spartito su cui ognuno suona a suo modo. Questo non è soltanto un discorso così di procedure di annessione o di fusione, è un discorso di anime diverse e probabilmente di sfilacciamento proprio nel momento in cui si governa. E dall'altra parte si vede un fenomeno tipo che abbiamo già conosciuto, l'opposizione che è più intransigente e più dura, che si mangia dal punto di vista mediatico e anche organizzativo, è quella che è più ragionante. Allora, questo secondo me dovrebbe essere il piano che è interessante, al di là del fatto poi che nelle vicende procedurali c'è chi ha ragione e chi ha torto. Il rischio molto elevato, secondo me, è che dal grande polverone, in realtà, lo dicono i sondaggi, non è che lo dice la mia impressione, siano nei due schieramenti la parte insomma più ferrigna ad avvalersene. Questo è inevitabile che sia così, perché quando c'è la guerra arrivano gli elmetti, no? Quando si è nella guerra guerreggiata, le persone, le colombe, come sempre, finiscono arrosto. Infatti, e quindi insomma, potremmo avere un voto in cui, al di là di una vittoria non smagliante, se non proprio di una sconfitta rispetto alle attese di Berlusconi del centrodestra, la Lega tutti si aspettano che stravince nel nord a questo punto, nel centrosinistra Di Pietro tutti dicono ma chissà quanti voti gli arrivano, insomma proprio due atteggiamenti che sono un po' secondo me anche la conseguenza di quello che sta avvenendo, e mi chiedo anche se non conti anche una certa voglia delle parti opposte, gli schieramenti di ciascuna coalizione, che questo possa essere l'esito. Comunque sentiamo alcuni ascoltatori che tipo di considerazioni rivolgono a Enrico Mentana. Cominciamo con Angelo da Milano. Angelo, prego. Sì, siccome ho stima per entrambi, e mi sembra che entrambi abbiano un tipo di visione, anche un lessico non tribale, vorrei chiedere una speranza, non tanto sulla questione delle liste, ma sul sistema dell'informazione televisiva. Chi o quale forza può cambiare questo sistema? Beh, bella domanda, sentiamo cosa ne pensa Enrico. Orazio da Messina, prego Orazio. Sì, no, io come ho detto in redazione volevo fare due osservazioni. La prima, sono perfettamente d'accordo con lei che la reazione al divieto di trasmissione avrebbe dovuto essere dura da parte dei direttori e molto chiara. Non rispettiamo questo regolamento nell'interesse della informazione, del diritto alla informazione. Poi sono anche d'accordo con Mentana perché è possibile benissimo aggirare senza violare le norme sulla par condicio. Io questo lo dico per esperienza personale, avendo diretto per 18 anni il più importante telegiornale della mia città e essendomi dovuto quindi occupare anche di trasmissione elettorale. Io avevo una rubrica settimanale di approfondimento politico che si chiamava Click e che nel periodo elettorale diventava Click Elezioni. Si faceva un regolamento perché è necessario, perché è previsto dalla legge, un codice di autoregolamentazione, si delimitavano gli ambiti di partecipazione, per esempio soltanto noi ci occupavamo ovviamente solo di elezioni comunali e di elezioni provinciali, invece di aprire i dibattiti a tutte le liste, lì si limitavano ai candidati a sindaco, di solito erano 4, 5, massimo 6, e altrettanti erano i candidati alla carica di Presidente della Repubblica. Certo, grazie Orazio, secondo la testualità del regolamento così non si potrebbe fare, quindi è ovvio che esiste una capacità di auto-organizzazione. Io preferirei che a quel punto si dichiarasse che uno non tiene conto di quello che alla lettera dovrebbe fare. Marcello da Monza ancora, prego Marcello. Buongiorno, niente, io mi rifacevo al discorso che ho sentito poco fa alla radio, si parlava appunto di, anzi in particolare mi rifaccio al discorso che fa spesso Cruciani alla radio quando ascolto la trasmissione in Ferrari, che parla appunto dove secondo lui in Italia c'è libertà di stampa. Io credo che noi siamo un passo peggio, noi siamo all'autocensura, questo è evidente ed è un discorso che avete toccato anche questa mattina. Purtroppo è una situazione italiana dove è un'anomalia e concordo con voi che credo che siamo forse l'unica nazione al mondo ad essere in queste condizioni, a dover introdurre delle leggi di par condicio, di avere stesse spazio in televisione per i partiti politici. È solo un sintomo di un problema dove c'è una lottizzazione e dove quindi implica anche un'autocensura. Questo è un fenomeno estremamente grave. Grazie Marcello. Siccome sono due fenomeni. Sul primo Enrico Mentana ha detto da cosa vengono, da cosa viene la par condicio, da chi poi politicamente non si fida e quindi in campagna elettorale dice meglio spazi assegnati in teoria piuttosto che no. Poi c'è un altro problema, quello che cita lei, io sono molto d'accordo, quello dell'autocensura che è fortissimo. Secondo me è prevale, cioè, io l'ho visto sempre prevalere, ma questa è la mia personale esperienza. La mia personale opinione, non voglio coinvolgere Enrico Mentana, io l'ho sempre vista prevalere negli ambiti, nelle testate, nei giornali in cui ho lavorato, si tratta di carta stampata soprattutto, ma anche nel mondo radiofonico. Del resto ho visto anche talvolta quanto può essere pesante l'intervento quando non rispetti le regole. Può essere molto pesante, cioè io ho condotto in diretta ogni giorno per mesi un programma su Rai 1, andava dopo il TG1, ne migliorai molto la fascia d'ascolto perché dovevo andare alla fine dell'edizione delle 13:30, quindi all'inizio alle 14, portando da 4 milioni e mezzo a 5 milioni e 8 in tre soli mesi, ed era di prova per vedere se poi andare dopo l'edizione delle 20, era naturalmente la testata che aveva condotto, un nome sacro come quello di Enzo Biagi e poi altri colleghi prima di me come Pigi Battista, e alla fine l'editore, ma non nella forma dell'editore, del direttore generale dell'azienda, l'editore nel senso dante causa di chi stava al governo, cioè alla presenza del consiglio, mi chiamò e mi disse: non posso andare in diretta a uno che vuole tagliare le tasse più di me. Ecco, questa è la mia esperienza personale. Io ovviamente avevo parlato di quello come di altro in totale libertà. Nessuno mi ha mai detto non toccare questo, non toccare quello, non parlare di OGM, anche se chiami il ministro che è contro gli OGM. Io l'ho fatto, poi ho visto che cosa è avvenuto. Non me ne lamento, cioè nel senso che esistono delle linee editoriali, per carità. Però questo è quello che vedo io. Non parliamo poi dei temi dell'informazione economica. In un paese in cui nelle grandi testate private, in questo caso, perché si parla di Rai e di Berlusconi, ed è verissimo, io sono d'accordo, però poi c'è anche il problema dell'influenza nella grande stampa privata, nell'informazione economica, quella che poi oramai ho tentato di fare io, lì guardate che i direttori li fa più un grande banchiere privato che tutta la politica messa insieme, e dico un banchiere privato, uno, allora, lì naturalmente esistono delle regole di autocensura abbastanza forti, perché siccome se tendi a volere, insomma, fare, come anche legittimo e giusto, un po' di carriera, devi sapere che quel banchiere privato, la sua banca e tutta la costellazione di interessi collegato, ovviamente se fai il tuo mestiere affondando dal tuo punto di vista in maniera documentale, fattuale, un pochino il coltello, quando ci sono cose secondo me che non interessano, che non sono all'interesse dei clienti, dei soci, dei fornitori, del mercato, da parte di quella banca e di chi lavora con lei, rischi molto. Questa è la mia opinione, io temo di saperne qualcosa, però ci sta se il conflitto di interessi è dichiarato, ci sta. Se uno fa il suo mestiere e non mette nel mirino nemici di un altro gruppo tanto per, perché capita questo, secondo me ci sta che poi gli interessi te la facciano anche pagare. Ecco qua, direi che la cosa migliore è chiedere a Enrico Mentana di dare una risposta a alcune delle domande che sono venute ai nostri ascoltatori. Uno chiedeva soprattutto: ma chi cosa potrà cambiare? Io ricordo tutti, io non ne ero molto consapevole, poi me ne sono ricordato leggendo La Passionaccia, il libro di Enrico Mentana, poi ha consegnato la Rizzoli dopo quello che avvenne con la sua estromissione dall'azienda, che Enrico Mentana ritiene, e a questa regola si è attenuto, per esempio, che fare il nostro mestiere con la responsabilità che ha avuto lui, il successo che ha avuto lui, significhi per esempio da un certo momento in poi non essere più andato a votare. Lui dice: una sola volta ho fatto eccezione a questa regola nel 2006, poi me ne sono subito pentito. Questo per dire che poi ci sono anche delle conseguenze che secondo me è giusto che nella vita e nella testimonianza privata del giornalista diventino un fondamento la propria credibilità pubblica. Ma ti aspetti che le cose cambino, come e se? No, non mi aspetto che le cose cambino, e tra l'altro non pretendo di essere esemplare neanche in quella cosa lì, no? No, però verità, mi ha fatto molto riflettere. La verità sì, perché poi se uno fa giornalismo perché gli piace, in realtà gli piace molto di più che parteggiare per uno, no? Ma è come dire, è come se uno scegliesse come proprio partito il giornalismo, è un, esatto, altro tipo di è un altro tipo di patriottismo, chiamiamolo così. Però in realtà noi dobbiamo vedere, e bisogna vederlo, proprio perché un giornalista può deve sapere analizzare, vedere che in realtà in questo paese si è molto rafforzato un altro tipo di patriottismo, quello della faziosità, quello tribale di cui si diceva prima, e si rafforzano molto i giornali che sono fortemente fiancheggiatori, no, delle parti politiche, e ormai anche in televisione si invale il modello di conduttore sessuato politicamente, esatto, no? In cui sai come la pensi e che guardi quindi per due motivi: perché la pensi come lui o per arrabbiarti con lui, no? No, ma a dirti la verità, poi questo secondo me è un modulo a cascata, perché anche gli ospiti oramai vengono prescelti in quanto bastonatori, no, dichiarati di qua e di là. Lo dico senza offendere nessuno, perché ne ho parlato anche con loro. Ci sono giornalisti che ormai sono perfettamente rodati a sostituire politici nei periodi in cui i politici non possono, esatto, apparire. Esatto. Perché tu vuoi fare uno scontro tra Di Pietro e Ghedini a anno zero, non possono venire per vari motivi, e Travaglio e Del Pietro possono sostituirli allo stesso modo, e che maggiore a volte dotazione di argomenti e chiarezza di espressione. E sono giornalisti che rivendicano la loro faziosità, chiamiamola così, non c'è nessun problema, e fanno peraltro in televisione lo stesso tipo di lavoro che fanno in modo benemerito nei rispettivi giornali, però evidentemente è un tipo di giornalismo che sceglie conquistare, nessuno di loro dirà che lo sceglie preventivamente. Naturalmente tu lo sai, perché ti sei misurato per anni, che l'accusa dall'altra parte, diciamo così, prima dell'avvento di questa fase in cui il giornalismo militante diventasse il modulo di successo in termini di copie in televisione, l'accusa era: vabbè, ho capito, però guardate che la maggioranza di voi che avete buone trasmissioni, anzi trasmissioni di successo alla televisione pubblica e privata, venite tutti dalla sinistra, la pensate tutti più o meno da una parte con qualche sfumatura, ma insomma, e quindi qui bisogna riequilibrare. Di qua il giornalismo, io li chiamo un po' i bastonatori, ma per ridere, io ci ho questionato anche a lungo con Vittorio Feltri quando ci lavoravo insieme su questa maniera di concepire e praticare il giornalismo, cioè un titolo che mette una persona, un fatto, un obiettivo, si bastona, si spara in prima pagina un editoriale e una foto che lo praticamente uccide dal punto di vista dei suoi difetti o fisici o personali. A me non sembra giornalismo, però rispetto chi invece lo fa, lo dichiara, lo pratica con successo. Però l'accusa che i conduttori stavano tutti dall'altra parte, che come l'hai vissuta tu negli anni? Ma l'ho vissuta, in realtà, da un certo punto di vista è ovvio che si è andata profilando come una divisione strumentale, doppiamente strumentale del lavoro, nel senso che sempre di più il centrodestra era interessato ai telegiornali e il centrosinistra ai talk show. Se vediamo, è vero quando uno dice la RAI e la televisione, l'informazione televisiva è fortemente berlusconizzata, nel senso che sicuramente i telegiornali, la prevalenza del, come dire, delle scelte dei telegiornali fa pensare a che l'informazione complessivamente dei TG inclini verso il centrodestra, così come è altrettanto incontestabile l'altro discorso in senso opposto per quanto riguarda i talk show. Ma è una cosa che è andata nel senso dell'interesse comune, c'è come una spartizione tacita, la mia area di influenza sono i TG, la mia area di influenza sono i talk show, ma soltanto è evidente che c'è una rappresentazione e autorappresentazione della sinistra come quella dei problemi, della problematicità, della visione dello spessore critico, dell'informazione d'approfondimento per quanto riguarda il mondo e soprattutto l'Italia che si è fortemente inclinata verso il centrodestra. Invece c'è una visione più rassicurante e comunque di lavoro sodo giorno per giorno che quella dei telegiornali. È funzionale a tutti, no? Certamente. Funzionale a tutti, meno che a quelli che stanno in mezzo. Il problema è che spesso viene confusa, questo è il mio elemento di critica più forte rispetto a come stanno andando le cose, viene confuso il fatto di non stare né di là, né da una parte né dall'altra, cioè di fare i giornalisti senza dover scegliere da che parte stare, come una sorta di neocentrismo. Esatto. Il fatto di non stare in diagonale vuol dire che bisogna stare in mezzo. E infatti dicono, ma allora tu sei per l'asse che domani i casini, cose ce la sono, veramente no. Ma insomma, un giornalista innanzitutto deve raccontare, cioè è la famosa frase abusata di Ernesto Rossi, non è per questo meno vera, detta ai tempi del fascismo da chi era. Ecco, è il fascista dice che piove, e piove davvero, il fascista ha ragione. Esatto, esatto, cosa che molti tendono a dimenticare. L'ultima domanda da Stefano da Cesena, prego Stefano, rapido. È caduto Stefano da Cesena. Va bene, te la chiedo io invece una cosa. Io ti chiedo questo: che impressione hai di questo messaggio che dal più degli sms che arrivano, almeno qua a Radio 24, pubblico, insomma, non solo imprenditori, ma molti anche piccoli imprenditori che dicono: ma com'è possibile alla politica ci fa arrivare il messaggio che per loro le regole non valgono e si interpretano in corsa? Perché noi, quando si tratta di tasse, adempimenti amministrativi, eccetera, eccetera, chi sgarra qua va incontro a multe, non è che gli dici mi cambi la regola. Loro se la cambiano. Ora, al di là delle ragioni e dei torti, questo che è un po' il punto di fondo di questo svolto elettorale, secondo me avrà un impatto pesante sull'elettorato di centrodestra verso Berlusconi. A oggi è così, poi non so la prossima settimana che succede. La tua impressione qual è? La mia impressione non è questa. La mia impressione è in realtà che quello che sta succedendo e la bagarre, il caos delle liste, sia lo specchio di quello che succede in molti altri settori di impatto tra interessi forti e burocrazia, tanto per intendersi. Cioè, che quello sia un andazzo che in realtà abbiamo visto al livello supremo, che è la presentazione delle liste. Però tu dici c'è dovunque nella vita italiana quando c'è dovunque, e purtroppo conosciamo i metodi. Ecco, non è che la burocrazia italiana è stata raccontata sempre, no? Come la macchina meravigliosa asburgica, no, assolutamente, no? E purtroppo quell'arte di arrangiarsi è arrivata al signor Miglioni, no? A quel livello del presentatore e non presentatore della lista del PDL a Roma. Il problema, come si dimostrano purtroppo anche non tanto le inchieste della magistratura quanto quel sottobosco delle inchieste che sono le intercettazioni telefoniche, quell'arte di arrangiarsi è purtroppo una cifra molto ampia del nostro paese. Ma quello che preoccupa invece è un'altra cosa, che l'immagine della politica ne venga svilita, che oggi si veda, e lo dice appunto un non elettore, che oggi si veda come i partiti siano delle cose abborracciate che dovrebbero essere decisioniste e non riescono neanche a presentarsi alle elezioni. Questa è la cosa, semmai una cifra. Penso che sia l'uomo che è forte e furbo che viene messo in discussione per questo, qui intendendo ovviamente due cifre di Berlusconi. Chiarissimo, no? Chiarissimo. Però allo stato attuale vediamo se non sia poi una tornata elettorale anche con sorprese sulle proiezioni degli equilibri politici anche a livello nazionale. A oggi, secondo me, si sono create premesse largamente inaspettate. Hai ragione, secondo me, sul fatto che poi la società civile, cioè l'Italia, non si può tirare indietro come se fosse una rispettosa adempiente di tutte le prescrizioni formali, amministrative. Non è così, quindi l'Italia ci pensi bene prima di dire guardate questi e le firme, loro le contraffanno mentre invece noi siamo tutti in regola. Sono molto d'accordo con questo, però lasciatemi finire la trasmissione dicendo: io mi auguro che non passino altri anni perché uno come Enrico Mentana resti fuori dal ring, e non lo dico perché siamo amici, poi ci sentiamo, ne frequentiamo non troppo, ma perché i campioni a servire chi è a casa e quelli che non si schierano con le tribù in mano, i manganelli in mano per l'informazione, secondo me vanno fatti lavorare con mezzi in nome del successo e di quello che ci hanno regalato con l'informazione. Grazie Enrico, e per quello che ci riguarda l'appuntamento è a domani. Grazie a Pippo Aureggi in regia, in redazione Alessandro Marcutulli, la linea al giornale radio.